Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, la domanda di oggi 800240024 per rispondere è molto semplice. Ci sono due grandi protagonisti delle nostre cronache, uno si chiama Riccardo Villari ed è il presidente ancora in carica, ma deposto della commissione di vigilanza sulla televisione, sulla Rai TV. L'altro si chiama Michele Santoro ed è il conduttore della trasmissione di Rai 2 Anno Zero. Sono agli onori delle cronache e la domanda è questa: sono eroi o furbastri? Questo è il vero problema a leggere le cose che sono accadute, che sono anche quelle molto semplici, molto chiare. Diciamo, non si prestano a grandi equivoci. Villari è stato destituito con un atto di forza che ha il valore giuridico che ha, vedremo, Villari minaccia ricorsi, da presidente della commissione di vigilanza. Era stato eletto regolarmente, però in condizioni politicamente anomale. I partiti della minoranza dell'opposizione, che hanno diritto a quel posto per consuetudine, hanno detto non è lui il nostro candidato, gli hanno chiesto di dimettersi, lo hanno cacciato dal gruppo dei democratici e dal partito. E Villari ha detto no, io resto, non mi dimetto, non me ne vado. Appunto, è un eroe della legalità, un uomo che tiene il punto per ragioni di principio, o è un politico? E naturalmente nei commenti prevale sempre un filo di etnicismo nei commenti italiani, un politico meridionale incollato alla poltrona col Vinavil, con una colla bella, forte, resistente. E per Santoro la questione è anche abbastanza semplice. È un eroe della libertà di pensiero quando fa trasmissioni come quella dell'altra volta su Israele, in cui diciamo, offre l'impressione di una forte unilateralità nel modo di trattare la faccenda, oppure è un uomo del quinto potere, cioè è un uomo del potere televisivo che sbertuccia tutti, si libera di qualunque obiezione dicendo io sono libero di fare quello che desidero. C'è stato uno scontro clamoroso col consiglio d'amministrazione della RAI, che poi è l'organo di governo diciamo dell'emittente televisiva che a Santoro dà la possibilità di lavorare, che è una possibilità costituzionalmente garantita, non è un'elargizione naturalmente, però insomma sono i suoi editori hanno detto sei tendenzioso, sei fazioso, sei intollerante, non ci piaci, e avrebbero solo dovuto aggiungere per questo ti mandiamo in onda da tanti anni felici, e lui ha risposto no, siete voi che siete gentucola che sta per mettere quella pistola puntata contro di me per il mio licenziamento, per il mio martirio, nelle mani di quelli che verranno, perché il consiglio d'amministrazione della RAI sta per cambiare, e le due cose si collegano naturalmente come esito del caso Villari, e lo fate perché volete farmi fuori senza nemmeno assumere la responsabilità. Eroe o furbastro anche lui? Nuovo martirio, nuova saga santoriana, oppure difesa civile seria di un principio di libertà di espressione? Ecco, dovremmo avere al microfono Clemente Mastella, personaggio, non so se l'hanno, sì, l'hanno recuperato, come no, eccolo qui. Clemente Mastella, ex ministro della giustizia, leader politico di un piccolo partito cattolico fortemente radicato in Campania, l'uomo chiave della caduta del governo Prodi, che è poi rimasto fuori dal Parlamento, ma è ancora qui, combattivo, vuole tornare ovviamente dentro la politica, che è la sostanza della sua vita, ed è stato il padrino politico, inteso nel senso religioso, bello, cioè ha tenuto a battesimo e ha fatto crescere come uomo politico Riccardo Villari. Onorevole Mastella, è un eroe o è un furbastro all'italiana Riccardo Villari? È uno che difende un principio anche compromettendo la sua carriera politica, o è uno che ha tentato di ricattare tutti e di rimanere incollato a quella poltrona approfittando della difficoltà di buttarlo giù di sella? Ma guardi, non è né un eroe né un furbastro, è una persona per bene che si è trovata in una condizione piuttosto particolare. E particolare credo non immaginando le conseguenze, cioè l'espulsione dal PD. Questa forma di espulsione, peraltro, consacrata ad un'anomala maggioranza interparlamentare tra l'opposizione e la stessa maggioranza, scusi il bisticcio di parole, cioè con un atto che è molto violento rispetto alle istituzioni, mai si è verificato in tanti anni di vita parlamentare, mai espresso una cosa di questo genere, mai visto una cosa di questo genere, un po' inaudita per molti aspetti, che sarà un precedente che potrà toccare anche i presidenti di Camera e Senato, laddove ci fossero uguali condizioni politiche e parlamentari. Cioè, ora spieghiamoci bene, scusi, onorevole Massera, lei vuole dire si limita l'autonomia, l'autorevolezza e la capacità di agire costituzionalmente e regolamentarmente garantita dei presidenti delle assemblee perché e delle commissioni? Non rappresentava, peraltro il fatto di dire che tocca all'opposizione è una formula di garanzia, ma diciamo lui era uno che non è che ha votato a favore del governo, quindi era l'opposizione, quindi non si capisce per quale ragione. E tutto questo l'uomo comune fa un'obiezione pratica, poi ne parleremo anche con Marco Beltrandi, che è il radicale che ha fatto la battaglia. Aspetti. L'uomo comune fa un'obiezione pratica, ministro, e dice questo: vabbè, quelli lo hanno eletto e lo legittimavano perché era la maggioranza che l'aveva eletto, è venuta a mancare quella maggioranza, se ne doveva andare. Questo è un discorso diverso. Questo è un discorso, beh, non l'uomo comune la stessa cosa così, che riguarda, cioè, il problema della giustizia in Italia, tra quello che è il dato morale e quello che è il dato illegale. Qua riguarda una questione che dal punto di vista della procedura, secondo me, oggi si vizia e si infligge un colpo notevole alle questioni parlamentari. Diversa è la questione politica. Se dimettersi o meno teneva alla sua coscienza politica e i suoi sentimenti politici, ma di qua a fare quello che si è verificato, francamente, mi pare che sia uno sbaglio clamoroso. E Santoro? E Santoro, lei se ne andò a una trasmissione di Santoro, come ha fatto l'annuncio? Santoro, poi ho visto che altri hanno elogiato le scelte della, mentre invece si è trascurato, mi si è lasciato in preda, in pasto agli avvoltoi. Vabbè, lei si lamenta dell'isolamento in cui è stato tenuto, ma Santoro, il suo giudizio adesso a freddo, qual è? È sincero, è un uomo che difende la sua libertà di pensiero, la sua libertà professionale? Guardi, evito essere giusto a loro perché mi ha promesso a loro e quindi non preferisco, diciamo, distingue le questioni tra quelli che sono gli aspetti di faziosità, che sono abbastanza evidenti, ma se si consente una televisione faziosa, alla fine non ci si può lamentare, si può uscire di scena come ho fatto io, però insomma l'unica cosa che mi chiede è questa. Dalla prudenza con cui risponde alla mia domanda vedo che vuole rientrare in scena. Le posso soltanto. L'unico problema che mi chiede è questo: si può fare questo all'interno della televisione pubblica? E questo è l'unico quesito che io posso. Io non credo. Va bene, grazie onorevole Mastella. Dovremmo avere in linea Marco Beltrandi. Beltrandi, ecco, lui sì è un eroe, perché i radicali lo fanno sempre, lo fanno comunque, che si tratti dei monaci buddisti, che si tratti dell'elezione del membro della Corte Costituzionale, che si tratti di un principio di legalità legato alla gestione dell'ordine pubblico, al modo di comportarsi delle forze di polizia, ai diritti dei cittadini, al caso Torto. Insomma, i radicali sono sempre lì per dire: a noi della faccenda in sé non ce ne importa niente, il merito politico, la coscienza, cosa deve fare, le maggioranze e le minoranze, a noi importa che siano correttamente seguite le regole, perché le regole per i radicali sono tutto. Sbaglio, Beltrandi? Diciamo che sono un elemento fondamentale, poi sì, cerchiamo anche di fare di una politica. Democrazia, sì. Vabbè, certo, questo è ovvio, ma adesso sto parlando di questo tipo di battaglie. Beltrandi, però questa regola per cui, diciamo, Villari non avrebbe mai più dovuto andarsene dalla Commissione una volta eletto e non c'era nessuna possibilità di contestare questa elezione, sebbene fosse venuta a mancare non solo la maggioranza, ma la volontà della grandissima maggioranza dei membri della Commissione di andare avanti. Non è una regola un po' astratta? No, ma io questa regola non l'ho mai proprio enunciata, nel senso che il presidente Villari, regolarmente eletto, ha mandato una lettera in cui ha fatto ciò che era obbligato a fare in termini di legge, cioè ha detto: ci sono una serie di atti dovuti da compiere, questi atti dovuti vanno compiuti, io li voglio compiere perché sono già in ritardo di molti mesi e ci sono delle scadenze. Beltrandi, però questo è, diciamo, adesso lei mi sta facendo una roba un po' burocratica, lasci stare la lettera, atti da compiere, qui la questione, diciamo, andiamo alla questione vera, lei ha fatto uno sciopero della fame, anzi credo che ancora lo stia facendo, ha occupato l'aula, lei ha posto un grande problema, lei ha detto qui è violata la legalità, non perché dovesse adempiere Villari a dei compiti di istituto, ma perché lei dice quello è il presidente e nessuno lo può cacciare via, sbaglio o no? Sì, non c'è dubbio. Oh, ma io... parliamo di questo. Questa è la cosa importante da discutere. Che senso ha che ci sia una persona che nessuno può cacciare via? Che regola è quella? Ah, adesso capisco meglio la domanda. La regola è quella che garantisce i presidenti delle assemblee legislative e delle commissioni parlamentari, perché il presidente non è tenuto a garantire la minoranza, come sento dire da qualcuno. Il presidente è tenuto a garantire la correttezza del funzionamento di tutta la commissione, non partecipa ai voti della commissione, il suo voto vale uno, come il mio. Quindi lui deve poter esercitare anzitutto come parlamentare protetto dall'articolo 67, cioè la libertà di vincolo di mandato, ma poi ancora di più ha ancora più necessità di essere indipendente dai partiti, perché proprio deve rappresentare tutta la commissione. Secondo voi Villari, che pure è eletto da una maggioranza formata dai partiti, è un eroe della battaglia contro la partitocrazia, che adesso si riprende la commissione e la sua presidenza. Paolo da Macerata: con Villari è il trionfo della partitocrazia, questo è l'appunto che mi danno sul suo messaggio. Paolo. Buongiorno Ferrara. In che senso il trionfo della partitocrazia? Villari è membro della partitocrazia. Sono d'accordo. È parte di un partito, ha fatto una carriera di politico, è stato eletto da una maggioranza formata dai partiti. In che senso il fatto che è stato cacciato il trionfo? Ma lui tentava di fare una lotta interna, molto probabilmente, perché a un certo punto, un po' per ansia di protagonismo, un po' per altro, è andato al ribalto della cronaca e senza dubbio, secondo il mio modesto parere, come dicono i radicali, c'è stato un vuoto di legittimità, perché comunque sta lì e è stato eletto da qualcuno. Che adesso i presidenti di Camera e Senato, che comunque rappresentano veramente il goda della partitocrazia, lo esautorano da questo incarico, è un atto di imperio che secondo me va contro la democrazia stick to sense, insomma. Ho capito. Vabbè, bisogna osservare, grazie Paolo, che anche i presidenti di Camera e Senato sono presidenti come Villari, anche loro garantiscono delle regole, quindi anche il loro comportamento è difficile da contestare. Abbiamo in linea Antonio Polito, direttore del Riformista. Buongiorno. Buongiorno. Polito, è un eroe o no Villari, secondo lei? Beh, un eroe colga, no. Colga anche tutta l'ironia naturalmente della domanda, però la domanda è vera, c'è una sua sostanza. O uno è un difensore della legalità, perché sta lì, si fa cacciare dal gruppo, si fa cacciare dal partito. Non so quale sarà il futuro politico di Villari, ma oggi è abbastanza oscuro. Si fa cacciare dai presidenti delle Camere come presidente di una commissione e lo fa per un principio, oppure sta lì perché cerca di ricattare, condizionare gli altri partiti, le istituzioni, per sete di potere. Qual è la verità? Perché la gente poi se lo chiede, vede questo Villari e dice, ma è un eroe o è un furbastro? Ma guardi, dal punto di vista della valutazione anche personale, del comportamento personale, secondo me Villari fino a un certo punto ha giocato, diciamo, politicamente, nel senso che ha tentato di rimanere lì per sete di potere, per successo personale, per affermazione personale, però devo dire anche che da un altro punto, da un altro momento in poi di questa vicenda, quando è stato chiaro che sarebbe stato fatto fuori in un modo o nell'altro, ha preso i panni di un, diciamo, di un martire, cioè si è messo in una condizione che sicuramente non gli dà vantaggi personali, se vuole, diciamo, una mia valutazione del comportamento individuale, personale. Diciamo che questa vicenda, nella sua evidente assurdità, ha però il comportamento di Villari, hanno scoperchiato una finzione, un'ipocrisia che c'è nella vita parlamentare, per cui queste commissioni che sono definite di garanzia, come per esempio le giunte per il regolamento, quelle per le autorizzazioni a procedere, la vigilanza sulla RAI, l'antimafia per esempio, dovrebbero essere delle commissioni dove il parlamentare si spoglia della sua partigianeria politica perché rappresenta l'interesse collettivo, la nazione, la vigilanza del Parlamento. E questo è stato evidente che nella vicenda, nel caso della vigilanza RAI, non esiste, non è vero, perché i partiti invece usano quello strumento della commissione non per svolgere questi alti compiti di vigilanza, ma per avere un controllo sulla RAI. Ecco, diciamo che quando i partiti, il Parlamento e la RAI entrano in connessione, magari in un luogo, in istituzione deputata come la Commissione di Vigilanza, entrano in connessione, che cosa succede? Succede un po' il circo, questa è abbastanza la cosa a cui siamo, a cui siamo abituati. Senta, il circo Santoro lei come lo giudica? Un circo. ecco, nel senso che siamo, diciamo, nell'ambito di una, a mio modo di vedere, di un modo di fare informazione televisiva che ha ormai molti pochi contatti con l'informazione, più che altro, diciamo, uno spettacolo, una fiction. Ecco, però come può succedere in un paese normale che un consiglio d'amministrazione di una televisione pubblica all'unanimità dice sei un fazioso, sei un arrogante, sei un intollerante, quello li manda a quel paese e poi non succederà niente, accusandoli, tra l'altro Santoro li ha accusati un po' come con l'Annunziata, ha detto all'Annunziata ma chi ti manda, a chi riferisci, quali crediti vuoi ottenere fuori da questa stanza, insomma ha insinuato pesantemente, e anche per il Consiglio d'amministrazione li ha mandati a quel paese, ha detto avete armato la pistola, avete armato il grilletto perché mi sparino quelli che verranno tra poco dopo di voi, ma insomma sono cose di una pesantezza bestiale, non si ricorda la memoria d'uomo scambi di accuse tra un giornalista e il suo editore di questo genere senza conseguenze. Come mai senza conseguenze, secondo lei? Beh, succede per la ragione di cui prima, nel senso che in realtà la RAI non ha un editore, l'editore della RAI sono i partiti, la politica. In un momento come questo, diciamo, in cui il Consiglio di amministrazione è particolarmente debole perché è scaduto e in prorogazio e così via, e, diciamo, non è in grado di prendere alcuna decisione da editore, insomma. Ritorniamo alla questione della cosiddetta, parola inglese, governance della RAI, cioè chi comanda su questa azienda. Certo. Dunque, Daniele da Roma. Buongiorno, buongiorno. Ci dica la sua opinione su questo scontro. Allora, volevo diciamo fare un'osservazione sul concetto di servizio pubblico, perché a mio giudizio a volte viene un pochettino equivocato, sì. In questo senso, spesso si dice determinati giornalisti faziosi o schierati non dovrebbero intervenire perché questo non è servizio pubblico. Ora, io da avvocato ricordo una sentenza della Corte Costituzionale che parlava di pluralismo interno. Cioè il servizio pubblico deve garantire al suo interno tutte le voci del Parlamento, della società civile, eccetera, eccetera, in modo che si possano esprimere in maniera equilibrata, equa, chiamiamola così, adesso non ricordo il termine usato dalla Corte. Per questo, secondo me, al di là del caso di specie, Santoro è schierato. Ho capito, lei dice chi se ne importa se Santoro è schierato, è furbastro, è un eroe della libera informazione. L'importante è che accanto a un Santoro ce ne siano altri che la pensano in un altro modo. E questo sia un anti-Santoro. Ecco, molto, diciamo, chiaro. Carlo Rossella. Carlo Rossella in linea? Carlo Rossella, buongiorno. È stato direttore di Panorama, è stato direttore della Stampa, è uno, diciamo, dei grandi del firmamento del giornalismo italiano. Oggi presiede la Medusa, cioè la grande società cinematografica. Rossella, ci dia lei una risposta se ha voglia. Sono degli eroi questi Villa, di questi Santoro, o sono dei furbastri? Ma gli eroi sono diversi. Gli eroi, non vedo eroismo in queste due persone. Villari, a un certo punto era logico che se ne andasse e che il Presidente delle Camere lo facessero sloggiare, perché la Commissione di Vigilanza deve funzionare, la RAI è un'azienda che, come diceva prima Polito, non è in questo momento, è molto debole, quindi lo abbiamo visto anche nel caso Santoro, non è stato preso poi di fatto nessun provvedimento se non una censura. Quindi io ritengo che abbiano fatto bene il Presidente delle Camere a farsi carico di questa faccenda, che non è certo una faccenda encomiabile, perché io ancora devo sapere con chi si è messo d'accordo Villari quando è stato nominato, vorrei dei nomi, dei cognomi, ma non ci sono. Io spero che Villari prima o poi faccia una bella intervista e chiarisca l'opinione. Dunque, pubblica. rammentiamo agli ascoltatori la faccenda. La faccenda è questa: per molti mesi si è votato per eleggere il presidente della Commissione di Vigilanza. L'Italia dei Valori di Di Pietro aveva proposto Leo Luca Orlando, l'ex sindaco di Palermo, e la maggioranza ha detto no, Leo Luca Orlando non lo vogliamo. Però bisognava sempre votare uno dell'opposizione, perché è una commissione cosiddetta di garanzia, e c'è questa consuetudine. Alla fine, dopo 43-44 votazioni per Orlando, è scappato fuori, è stato eletto con i voti della maggioranza, non con i voti dell'opposizione che non lo ha votato, questo Villari, no? Questo è quello che accadde. E Rossella dice, ma forse Villari fu eletto in accordo con settori della minoranza. È questo che lei dice? Sì, con settori, anche con settori della minoranza che gli hanno dato una mano. E lui ebbe tre voti dalla minoranza. Vorrei sapere chi sono questi tre che lo hanno votato. E quindi dovrebbe essere stata una manovra contro Veltroni, contro il capo del Partito Democratico. Scusi un attimo, Marco dalla Spezia. Marco dalla Spezia. Marco, Ci dica. Marco? Sì, scusi. Marco dalla Spezia, prego. Ero in ambulatorio, però volevo parlare, quindi ho chiamato la ricerca. Ma da dove chiama? Da un ascensore, da una, da no, una, no, da una vetta spaziale? Ero in studio, sono nel mio, nell'ambulatorio dove lavoro, quindi ho lasciato un attimo di là. Volevo ringraziare intanto che avete richiamato e volevo dire la mia così di pancia. Proprio lei dice che Villari è stata un'operazione contro il Partito Democratico. No, non è un'operazione, non è un'operazione. È una persona che non è né un furbo, a mio modo di vedere, né un furbo, e poi dirò anche su Santoro quello che penso. Se né un furbo né un eroe, ma... È un eroe, è una persona che ha portato alle conseguenze, alle estreme conseguenze, quello che è la paralisi del nostro sistema, cioè due partiti che si contrastano in maniera a volte becera e rimettendoci, perché certamente il Partito Democratico non gli sarà grato, evidente, l'hanno cacciato. Però trovo anche giusto che dal momento che è stato eletto legalmente, allora vuol dire che è stata una buffonata, se ora loro a un certo momento dicono no, torniamo indietro, basta. Allora lui era stato solo un candidato di facciata da parte della... Quindi lei è fondamentalmente solidale. Va bene, grazie. Grazie molte, Marco dalla Spezia. Auguri, buon lavoro. Rossella, le chiedo di commentare Facebook, il grande fenomeno mediatico, insomma si parlano, chattano, non so come si deve dire. Allora, Facebook, c'è un gruppo di amici di Riccardo Villari, fanatici di Riccardo Villari, le cito alcuni dei commenti più recenti. Francesco Murano, il re è nudo, forza senatore, 3! Giovanni Gallo, esempio Villari di lealtà e coerenza, grande politico e uomo retto. Bruno Gambardella, Università di Napoli, Federico II, le regole non sono carta straccia, solidarietà a lei e ai compagni radicali. Mario Tedesco, sei un grande, li stai sputtanando tutti, tieni duro e non mollare mai, e dimostra quanto non servono e non valgono niente tutti. Nino Carella, applaudo alla surreale provocazione. Questo è il messaggio di Facebook più culturale. La migliore performance artistica degli ultimi anni insieme alla Fontana di Trevi dipinta di rosso. Bravo senatore, resisti, facci vedere fino a che punto vogliono arrivare i partitocrati. Lei come commenta questo entusiasmo? Il commento che mi è piaciuto di più è applaudo alla surreale provocazione. Infatti mi sembra una surreale, mi è sembrata quella di Villari, che è una persona per bene ovviamente, perché non è certo una persona per male. Tutti quelli che hanno fatto dell'ironia sul fatto che Villari è napoletano, li invito a passare 4 mesi a Napoli e gli piacerà moltissimo questa città, gli piaceranno moltissimi napoletani. No, devo dire 4 mesi a Napoli, si deve imporre a tutti questi antimeridionalisti di stare 4 mesi a Napoli a domicilio coatto e si divertiranno moltissimo. Non facciamo come il famoso comico americano W.C. Fields su Filadelfia, che diceva il primo premio è una settimana a Filadelfia, il secondo premio è 3 settimane a Filadelfia. No, mi veniva da dire primo premio 4 mesi a Napoli, secondo premio 4 anni a Napoli. Sì, è stata una vicenda surreale questa, ma molto surreale. Io volevo dire, bisogna capire la genesi di questa vicenda. Finché non capirò la genesi di questa vicenda non posso dire se Villari è una persona. Ma lì ci fu un bigliettino, il bigliettino, ci fu il pizzino, non si ricorda? Ma a un certo punto in televisione ci fu uno scambio di bigliettini da cui sembrò di capire che i dalemiani, irritati dal fatto che Veltroni continuava a tenere duro su Orlando, hanno detto ma troviamo un compromesso, su in politica si fa così. Leggeremo la verità nel prossimo libro di Vespa, che uscirà regolarmente nel prossimo ottobre, e quindi dobbiamo aspettare fino a ottobre il libro di Vespa, a meno che Vespa, che faccia un'anticipazione adesso. Non sarebbe male, effettivamente avremmo dovuto chiamarlo. Il caso Santoro invece è di tutt'altra pasta come vicenda. Io devo dire che mi sono molto scandalizzato dalla faziosità della trasmissione di Santoro, cioè io non ho mai visto una trasmissione così faziosa e poi non ho mai visto un commento così pesante. Ma lui dice io sono libero di dire il mio pensiero, e l'ambasciatore israeliano che ha protestato è una grave interferenza nella libertà d'espressione in Italia da parte di Israele. Ma io ritengo che non sia vero, perché un ambasciatore in tutti i paesi del mondo, gli ambasciatori, se ci sono delle trasmissioni faziose o delle trasmissioni che vedono l'immagine di quel paese in una maniera vergognosa, come è stato fatto la trasmissione di Santoro, protestano con i governi, protestano con le trasmissioni televisive, non è una cosa fuori dal comune. Probabilmente Santoro sta troppo in Italia e sta poco all'estero. Seconda cosa, ha trattato una signora molto male e questo non si fa, vuol dire che gli mancano alcuni fondamentali, e io direi di rileggersi il galateo di Monsignor della Casa. Per quanto riguarda il consiglio d'amministrazione della RAI, Berlusconi era stato più signore con l'annunziata, ma certo, le ha stretto la mano, lì non era stata lì, io ho criticato in quella fase, criticai l'annunziata, perché l'annunziata aveva usato un tono con Berlusconi molto molto molto molto inquisitorio, che non andava bene. Santoro invece, la battuta di Santoro invece è una battuta tremenda, se qui per farti dei crediti, ma che vuol dire, chi sono, dillo allora, presso chi l'annunziata si voleva accreditare. Invece l'insinuazione in televisione di fronte a milioni di persone è una cosa che fa molto male, è una cosa un po' furbastra. Va allora, bene. Villari è un eroe surreale, molto surreale. Santoro secondo me è un furbastro. Grazie, lei è stato molto carino a dare finalmente una risposta chiara e netta. Arrivederla, Rossella, grazie molte. Polito e Beltrandi, qui bisogna sentire un attimo cosa dicono i radioascoltatori e poi interloquire con loro. Naturalmente io vorrei parlare con David da Bari. Direttore, due brevissime considerazioni. Prima sul centrodestra, scelto Villari secondo me doveva essere coerente e seguire quella strada. Se si bloccava il funzionamento della commissione non sarebbe stato il primo caso nella storia italiana e si andava avanti. Su Santoro una provocazione, essendo lui il campione della imparzialità, dell'autonomia, allora per stare tutti tranquilli nominiamolo presidente della RAI, così la notte dormiremo tranquilli, perché sarà lui a sorvegliare che l'imparzialità, i diritti, tutto il pluralismo saranno rispettati al 100%, quindi lo mettiamo lì, ce lo troviamo davanti, un problema in meno e abbiamo il nostro... Ho capito, un'altra provocazione paradossale di David Bari, grazie. Polito, poi torniamo a Beltrandi e alla questione del ricorso, che è anche molto curiosa e interessante. Polito, facciamo un po' di previsioni politiche, la gente è anche interessata a sapere di che morte muore la RAI, cioè di che vita vive naturalmente. E voglio dire, noi abbiamo avuto un recente caso europeo importante, Francia, presidente Sarkozy, decisione di togliere la pubblicità in prime time alle reti pubbliche. Sarkozy è stato criticato, hanno detto tu sei amico di Martin Bouygues, cioè l'editore privato, il Berlusconi francese che ha TF1, e per favorirlo, per mandare la pubblicità da lui, la togli alle reti pubbliche. E lui ha risposto no, io penso che le televisioni pubbliche devono fare un altro mestiere rispetto alle televisioni private, si devono finanziare con la redevance, che sarebbe appunto il canone. E penso che questa cosa va fatta e va fatta subito, e l'ha realizzata. Sono aumentati molto gli ascolti per le reti pubbliche, perché naturalmente senza la pubblicità, almeno in quei giorni in cui hanno esordito, tutti sono andati a guardare com'era la televisione senza gli spot, e comunque la cosa è stata fatta. Lì c'è un forte controllo del potere sulla televisione. Qui la televisione sembra essere andata un po' fuori controllo, la televisione pubblica in particolare, come dimostrano. Secondo lei, Polito, che osserva la vita pubblica, la vita politica italiana, diciamo da un punto d'osservazione interessante, la direzione di un quotidiano come Il Riformista, le chiedo, il patto Bettini-Letta, Goffredo Bettini, coordinatore del PD, braccio destro di Veltroni, Letta, braccio destro di Berlusconi, il patto Bettini-Letta per riprendere in mano, come ha detto Berlusconi, la RAI, adesso lo varano, entrerà in porto a vele spiegate o ci saranno altre puntate di questa telenovela eterna? No, io penso che quello che è successo, cioè lo scioglimento della commissione di vigilanza, vuol dire che il patto procede, si farà. Credo che Berlusconi stesso si sia convinto che questa vicenda che continuava la RAI fosse un danno generale per la credibilità della politica, quindi compreso la sua. Credo anche che abbia, e l'ha detto in più occasioni, pubbliche e private, un forte fastidio, preoccupazione per come la televisione pubblica segue le vicende della crisi, crede che ci sia troppa enfasi sulla gravità del momento, sapete che Berlusconi tutti lo fossero, quindi anche i programmi televisivi, non gli piace la satira, non gli piacciono le critiche che spesso nelle trasmissioni televisive gli si vengono rivolte, quindi io credo che ci sia un interesse comune dei due grandi partiti, dei due grandi blocchi a metterci le mani. Un interesse comune a metterci le mani. Beh, insomma, Beltrandi, farete ricorso? Cercherete di... Come fate a fare ricorso? È impossibile fare ricorso. Lei sa che i presidenti delle Camere sono come una specie di mostro sacro a due teste. Regnano su un castello blindato. Le Camere hanno il loro bilancio sul quale nessuno può mettere becco. Le Camere sono autonome o dovrebbero essere teoricamente anche dalla magistratura. Nessuno può arrestare senza il loro consenso i membri delle Camere. Insomma, le Camere hanno delle guarentigie. I presidenti ne sono i custodi. Come fate a fare ricorso? A chi fate ricorso? Al Padre Eterno? Mi consenta solo una frase. Prego. Su Santoro brevissima, sì. Poi rispondo. È meglio la faziosità manifesta di Santoro della falsa imparzialità di un Floris. Questa è la mia opinione. Quanto invece al ricorso, secondo i nostri giuristi ci sono molti profili negli atti, soprattutto che hanno dimissionato forzatamente i tre membri, fra cui io e il presidente Villari, che non si erano dimessi. E quindi se c'è veramente un giudice a Roma, anche a Roma, come noi ci auguriamo, riteniamo che... Ma chi lo fa del ricorso? Me lo riveli, ce lo spieghi, perché uno dice presidente delle Camere, uno può fare ricorso al presidente della Repubblica, forse... Si può fare ricorso alla Corte Costituzionale, anche se è molto impervio, e anche al TAR, e in più c'è anche un procedimento penale aperto dalla Procura di Roma. Noi comunque faremo ricorso in tutte le sedi possibili e non solo italiane. Ho capito. C'è Elio da Campobasso che credo sia d'accordo con lei su Santoro. Bisogna riconoscere che... Elio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccomi. Lei che dice di Santoro? Milano Ferrara, buongiorno anche a lei. Ovviamente. Buongiorno. Buongiorno. Senta, su Santoro vorrei dire, io preferisco persone come Santoro, faziose, perché tutti siamo faziosi, perché ognuno abbiamo un'idea politica, quindi tutti stiamo da una parte, quindi siamo faziosi. Però che ci dicano delle verità, anche scomode, piuttosto che certi giornalisti invece piaggiatori, che non solo non ci dicono alcune verità perché sono spiacevoli, non solo ai cittadini, ma non sanno nemmeno contestare le menzogne che dicono alcuni politici quando vengono intervistati. Questo io non l'accetto, quindi preferisco Santoro sotto questo aspetto, anche se è persona scomoda, indubbiamente faziosa, a volte anche poco educato, questo bisogna riconoscerlo. Su Villari vorrei dire che io non accetto invece quando si dice oggi al Parlamento viene eletto Tizio a questa carica, ma quella non è una elezione, invece è una cooptazione. Quindi se ci sono delle regole con le quali è stato eletto nel Parlamento un presidente, ma quella è la regola e non quella che invece che i partiti fanno tra loro. No, ci mettiamo d'accordo che facciamo Tizio, per esempio, adesso voglio tutti Sergio Zavoli, per carità, con tutto il rispetto, però un 85enne che è stato presidente Rai e che adesso dovrebbe fare il controllo sulla Rai, mi sembra un pochettino assurdo. Grazie. Bene, buona giornata. Questa cosa degli 85 anni di 84, non so quanti siano, di Sergio Zavoli, la ritengo sbagliata. Non bisogna guardare all'età delle persone, bisogna guardare a ciò che le persone rappresentano per le loro idee, per quello che pensano, per quello che dicono. Polito, lei cosa pensa? Ma sì, in linea di massima sì. In linea di massima, però, forse invece possiamo introdurre un altro. In linea di massima, non la vedo convinto di questo. No, insomma, voglio dire, dipende dai ruoli. Certo, ci sono dei ruoli più di garanzia dove una persona anziana può forse avere anche più saggezza. Ma il punto vero mio è che secondo me la Commissione di vigilanza non serve a nulla. Cioè, è proprio veramente un ente inutile. Sono 40 parlamentari per fare una cosa che potrebbe fare un ufficio, cioè quello dei regolamenti sulle campagne. Un ufficio di 3-4 probiviri, sì. 3-4 probiviri e poi, siccome elegge, anche lì secondo me la legge è sbagliata, ma insomma elegge un altro parlamentino dei partiti che poi è il CDA, quello se lo potrebbe eleggere il Parlamento direttamente, quindi Zavoli va benissimo, ma è la funzione che secondo me non va, non serve. Ecco, tutto questo mondo, stiamo parlando 800 24 00 24, stiamo parlando della RAI, di Villari, di Santoro, di questo organismo fuori controllo, tutto questo mondo che si incrocia intorno alla RAI ha soprattutto per me di veramente surreale il fatto che esercita tutta una pressione, un'energia, una voglia di battaglia intorno a un oggetto che non so se sia veramente così importante. Riflettiamoci, Polito, riflettiamoci seriamente. La RAI appoggia qualcuno, non è detto che questo qualcuno vinca le elezioni, non è detto. La RAI era contro la Lega, la censurava, la Lega è diventata un fattore stabile della politica italiana, ha preso un sacco di voti, continua ad andare avanti, pur essendo un partito nato come un partito antitelevisivo, poi certo si è trasformato, hanno imparato anche loro a usare il mezzo. La RAI era contro Berlusconi, era la RAI dei professori, una RAI così integerrima che aveva tutto un suo profilo e che non accettava l'anomalia di un potere populista che si affermava nel 94, ma Berlusconi vinse. La RAI era, si diceva, nelle mani di Berlusconi nel 2006, era nelle mani di Berlusconi perché Berlusconi aveva governato 5 anni, il conflitto di interessi, tutte quelle storie lì, eccetera, eccetera. Però vinse, sia pure di poco, Romano Prodi. La RAI vale veramente questa passione patologica che le dedicano i partiti, le forze politiche, i giornalisti, gli intellettuali? È una grande fabbrica di cultura, è naturalmente un'azienda importante, è un'azienda decisiva, ma aveva ragione Bernabei quando diceva se non c'è una RAI bene orientata non riusciamo a mandare a letto tranquilli gli italiani, invece bisogna mandare a letto tranquillo il popolo per governare bene, in modo coeso, unitario, significativo un paese. Qual è la verità? Ma secondo me la RAI non merita la guerra continua dei partiti in cerca di voti, nel senso che la RAI non produce voti, soprattutto non li produce nelle arene su cui particolarmente si combattono i partiti, cioè i talk show e i telegiornali. Insomma, io se vedo un telegiornale italiano, tutto sommato, qualsiasi telegiornale italiano, dice pressoché le stesse cose, non credo che orienti e cambi l'opinione della gente, mentre invece la televisione, in senso molto più ampio, cioè quindi anche l'altro sistema, quello privato, e inteso soprattutto comprendendo anche tutto quel sistema di immaginario collettivo che c'è nelle fiction, nei serial, nel Grande Fratello, nei programmi, i contenitori dove c'è il cantante e poi si parla anche di fatti di attualità, eccetera, quello secondo me agisce nel profondo quantomeno sulla psiche di un paese. Forse ha ragione Bernabei quando diceva che se no non vanno a letto tranquilli, ci si convince di alcune posizioni, di alcune idee, di alcune valutazioni sullo stato del paese che magari certe volte sono di luoghi comuni, non sono abbastanza approfondite. Quindi sì, la qualità della televisione nel suo complesso ha a che fare con la qualità del dibattito pubblico, dello stato d'animo di un paese. Bernabei, lo ricordo per gli ascoltatori più giovani, è stato praticamente il grande fratello della RAI quando la RAI era veramente la TV di Stato senza concorrenti, la TV monopolista, e quando Bernabei diceva mettiamo a letto tranquilli gli italiani si riferiva a platee di 20-25 milioni di spettatori che guardavano la RAI senza concorrenza, quindi è un po' tutta un'altra stagione, un'altra epoca storica. È venuto a trovarci Stefano Folli, il notista politico del Sole 24 Ore, del giornale della nostra ditta, ex direttore del Corriere della Sera e grande, scrupoloso e intelligente osservatore politico. Vorrei una previsione da lui per il bene e la pace e la tranquillità dei nostri ascoltatori. Che cosa succederà adesso? Diciamo, Villari sembrerebbe fatto fuori, il ricorso è una via difficile, Beltrandi dice che ci proveranno, cercheranno un giudice a Berlino, ma stavolta contro i presidenti delle Camere un giudice secondo me non lo trovano. Allora c'è questo patto Bettini-Letta per mettere su un binario, diciamo, condiviso, come si dice adesso con parola tuttofare, la RAI. dovranno cambiare i direttori dei telegiornali, il TG1. Che succede adesso? Riprendono in mano la RAI e smettono di litigare, o riprendono in mano la RAI e ricominciano a litigare sulla RAI, maggioranza e opposizione? Ma io ho scritto anche ieri un pezzo su questo, ma secondo me è singolare e paradossale un sistema in cui si litiga su tutto, ci si scanna dalla mattina alla sera su tutti i grandi temi di governo che meriterebbero alle volte anche una certa convergenza parlamentare, certo. E però si trova magicamente un grande accordo quando si tratta di spartirsi la RAI, perché di questo si tratta naturalmente. Poi sarà anche forse giusto, perché non dico di no, però certo è curioso che soltanto su questi temi magicamente, no, si arriva alla, certo, a quella, certo, coesione nazionale che viene invocata inutilmente su tutta un'altra gamma di situazioni. E stamattina Omnibus sulla 7 Paolo Liguori diceva spartizione, quello è il regime di governo della RAI, fatta così. Sì, ma perché infatti non mi scandalizzo assolutamente, basta che non parliamo di, diciamo, grande spirito bipartisan, rispetto dell'istituzione, eccetera. No, è un accordo per spartirsi la RAI, e a cui si piega tutto, anche una logica parlamentare. Certo, d'altra parte questa poi è la tradizione italiana, no? Noi facciamo queste cose così, insomma, un po' che maliziosamente si potrebbero chiamare un po' inciuci, cioè accordi sotto banco, eccetera, eccetera, e li nobilitiamo. E diciamo, ah, questo è un atto bipartisan. Questa è effettivamente un po' una cosa un po' inciuciosa. Espressione che non mi piace, che spesso si usa un po' di cattivo gusto, però in questo caso sì, questo è proprio questo. Bene, Beltrandi, le devo qualcosa? Sono stato obiettivo? Perché so che questa trasmissione poi andrà in onda anche su Radio Radicale, non vorrei che tagliaste, mi censuraste, mi attaccaste. Figuriamoci, no, io vorrei dire solo una cosa. Intanto, quando smette lo sciopero della fame? Perché io sono anche preoccupato, diciamo. Ma anche l'occupazione, no? Questo è ancora da decidere. No, insomma, l'occupazione adesso la buttano fuori i commessi, immagino, perché devono insediarsi gli altri. Sì, ma sono uno dei rinominati, quindi adesso vediamo. Ah, beh, se è rinominato, lei occupa e poi sarà normalmente parte della platea dei deputati. No, adesso a parte gli scherzi. Vabbè, sì, dica. La RAI è sempre stata gestita consociativamente, e la RAI, purtroppo, questa RAI ha ancora una grandissima influenza sulle scelte degli italiani. Lei è sicuro di questo? Sì, sì, assolutamente. E allora perché appoggiava Berlusconi dopo 5 anni di governo di Berlusconi e ha vinto Prodi? Ma appunto la RAI è gestita sempre consociativamente, non è mai stata gestita da una parte sola. Ah, lei dice che la RAI quindi in realtà, diciamo, è intollerante verso i pensieri delle minoranze, fa parte di un blocco dove si alternano al potere gli uni e gli altri, la RAI lì è neutrale, ma quello in cui la RAI è dura è nell'escludere voi, per esempio, i radicali dall'informazione, così? Ma non solo noi siamo esclusi. Lo sapevo che avrebbe detto che era così. Grazie onorevole Beltrandi, auguri, smetta lo sciopero della fame, cercate di trovare un giudice a Berlino, sarà difficile. Grazie a Stefano Folli che ci è venuto a trovare in fine trasmissione dopo aver fatto stamattina presto la sua rassegna stampa, la sua magnifica rassegna stampa. Grazie a tutti voi, grazie a Polito, a Rossella, a Mastella, ci vediamo domani, un bacio.